a te, nulla di gol potrà, l'inferno dirà po, l'inferno dirà po, nulla di gol potrà, l'inferno dirà po. Nulla di corpo potrà, nulla di corpo potrà, l'inferno irà po, dove lo combatti, nulla di corpo potrà, l'inferno irà po, l'inferno irà po. Le pietà s'abbatte contro de suo rigor, contro de suo rigor, congiura il fato, contro de suo rigor, congiura il fato. Come lo dolgo batte, nulla di corpo potrà, l'inferno irà po, nulla di corpo potrà, l'inferno irà po, l'inferno irà po. Come lo dolgo batte, nulla di corpo potrà, nulla di corpo potrà, l'inferno irà po, dove lo combatti, nulla di corpo potrà, l'inferno irà.